le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Calcio scommesse, 'Ndrangheta, ondata di arresti nella Lega Pro e Serie D, indagati presidenti, allenatori, calciatori, 30 partite sotto esame, gli uomini delle 'Ndrine tentarono di arrivare anche alla Serie B. Gli scontri a Milano del 1° maggio, nel giorno dell'inaugurazione di Expo, è stato arrestato un anarchico di 28 anni, sarebbe uno di quelli che ha picchiato il vicequestore D'Urso, agì per far male, dice il GIP. Spese folli, si dimette perché indagato il presidente di Ferrovie Nord Milano, 14.000 euro in abbigliamento, 124.000 di spese telefoniche del figlio, 3.700 di scommesse sportive, tutto con la carta aziendale. Pensioni, proteste dell'opposizione per la soluzione scelta dal governo di rimborsare solo una parte, l'Europa intanto dà l'ok alle misure mentre si apre il dibattito sull'uscita flessibile dal lavoro. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e il numero di SMS per la diretta, il 349-238-6666. In apertura la maxi inchiesta contro il calcio scommesse, sentiamo. Almeno 27 partite truccate, tutte della stagione in corso tra Lega Pro e Serie D, e su molte altre il tentativo di manipolarle. Ci sono presidenti, allenatori, manager, calciatori, imprenditori delle società calcistiche al centro dell'ultimo scandalo. Almeno 50 fermi in tutta Italia, oltre 70 indagati, una trentina le squadre coinvolte. Nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla frode calcistica, ma ad alcuni coinvolti vengono contestate anche le aggravanti mafiose, come conferma il capo della squadra mobile di Catanzaro, Rodolfo Ruperti. Un elemento sicuramente caratterizzante è il fatto che noi siamo arrivati a questa inchiesta partendo da un boss dell''Ndrangheta, da Iannazzo Pietro, e seguendo lui abbiamo ricostruito una prima associazione a delinquere che aveva come finalità quella di favorire le vittorie del Neapolis, del Brindisi e poi di altre squadre nei campionati di calcio di Serie D. La cupola puntava anche a serie maggiori come la B, ha chiarito il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo. Ci sono 4 partite, per esempio, che sono state oggetto di attenzione per fare la combine. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. E di questo torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione, lo faremo tra l'altro col vicepresidente della Lega Pro, perché la stessa Lega Pro si era dotata a partire dal 2011 di un sistema che era studiato appositamente per evitare le combine, che studiava per esempio le scommesse dei bookmaker per valutare che cosa, se ci fossero delle anomalie. Di questo parleremo con lui tra poco. Sei avvisi di conclusione intanto delle indagini preliminari, affirma il PM Savina Toscani a Brindisi per un ex presidente del Brindisi Calcio, Roberto Quarta, alcuni tesserati e anche esponenti della tifoseria ultras locale. Si tratta di un'inchiesta anche questa che riguarda 2 presunti tentativi di combine e una serie di condotte intimidatorie verificatesi negli anni passati. E c'è ancora un'altra inchiesta che riguarda il mondo del calcio nella giornata di oggi, perché nell'ambito degli accertamenti sulla vendita dei diritti televisivi per le stagioni tra il 2015 e il 2018, i finanzieri del nucleo speciale tutela dei mercati hanno eseguito ispezioni a Milano e Roma nelle sedi della Lega Calcio di Serie A e di alcune pay TV. L'ipotesi investigativa che all'esame dell'antitrust e della Guardia di Finanza è che l'esito finale della vendita dei diritti televisivi sia stato alterato con un accordo che ha ristretto la concorrenza. Tutto questo quello che riguarda il mondo del calcio, come vi dicevo ci torneremo più avanti. Veniamo adesso però alle indagini sugli scontri a Milano del 1° maggio. È stato arrestato un sospetto per l'aggressione al vicequestore, ritratta in un video e in foto che hanno fatto il giro d'Italia. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, proprio quella foto che è diventata uno dei simboli degli scontri del 1° maggio, e quella foto ora lo ha portato in carcere. Identificato grazie ad uno scatto, è stato arrestato uno dei responsabili dell'aggressione al vicequestore di polizia d'Urso nelle ore in cui Milano veniva messo a ferro e fuoco il primo maggio durante la manifestazione No Expo. Marco Ventura, 28 anni, qualche precedente per furti, è stato catturato dalla Digos in un appartamento occupato di Milano, è un militante dell'area anarchica, come anche l'altro ventenne denunciato e come ipotizzano gli investigatori gli altri responsabili dell'aggressione al poliziotto, un'aggressione in tre momenti fatta appunto al poliziotto d'Urso che, se non avesse avuto il casco, nota il PM Basilone nella richiesta di arresto, avrebbe subito gravi conseguenze. Il giovane anarchico negli ultimi giorni si era arrasato per rendersi meno riconoscibile rispetto a quello scatto del primo maggio in cui era stato immortalato soprattutto il suo viso semi scoperto col pizzetto in un gruppo di 4-5 cassor che con mazze e bastoni avevano picchiato il poliziotto. Altri restano ancora da identificare. A quasi 2 settimane dunque dai disordini, dopo i 5 già arrestati subito, altri vengono raggiunti e messi sotto accusa per quelle violenze in Mondovisione. Simone. Grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. Ha lasciato l'incarico, dopo l'indagine che lo riguarda, il presidente di Ferrovie Nord Milano. Ristoranti, alberghi a 5 stelle, scommesse online, auto aziendali, multe, scarpe e vestiti di marca e anche 3 dipinti. Norberto, Achille, moglie e figli non si facevano mancare nulla. Tanto pagava Ferrovie Nord Milano. 600.000 euro di conti, tutti addebitati sulla carta di credito della società, dalla quale ora si è dimesso. In particolare, Achille avrebbe ceduto alla moglie e a un figlio 2 schede telefoniche intestate alla società, che ne sosteneva i costi per 125.000 euro. Avrebbe ceduto poi, in uso esclusivo a un figlio, 2 auto aziendali noleggiate a un costo di 220.000 euro, con le quali il figlio ha preso delle multe per 125.000 euro. Sava Sandì, anche queste pagate da Ferrovie Nord Milano. L'azienda ribadisce la correttezza dei propri bilanci. Dopo l'addio di oggi, la rappresentanza di Ferrovie Nord Milano, controllata al 57% dalla Regione Lombardia, viene assunta dal suo vice Luigi Cardinetti. Un avviso di garanzia è stato recapitato anche al presidente del collegio sindacale, Carlo Alberto Belloni, per tentato favoreggiamento. Achille, dopo un'esperienza come assessore ai trasporti nel comune di Milano nel 97, con la guida Albertini, è stato presidente delle Ferrovie Nord dal 1998. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani delle decisioni del governo sulle pensioni resta alto il dibattito e anche lo scontro politico e anche sull'ipotesi di uscita flessibile dal lavoro, mentre arriva una sostanziale promozione da Bruxelles. Il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, non solo da Bruxelles, Simone, ma anche dall'ex commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, ora al Fondo Monetario Internazionale, dice la spesa pensionistica in Italia è al 16,5% del PIL, la più alta tra i paesi avanzati. Alla luce di quanto deciso dalla consulta, servirebbe un provvedimento per evitare problemi legali futuri e soprattutto bisognerebbe commensurare le pensioni e i contributi. C'è anche però, come hai detto tu, l'Unione Europea che plaude al governo. Il decreto legge varato ieri, spiegano da Bruxelles, rispetta i vincoli di bilancio della legge di stabilità. Intanto il ministro del lavoro Giuliano Poletti spiega che con il provvedimento sui rimborsi per le mancate e indicizzazioni per la prima volta non ci sono giochetti e annuncia anche l'arrivo di una staffetta generazionale con la mini riforma della legge Fornero. Ricordiamo, si potrà andare prima in pensione ma con assegno più basso e questo potrà dare spazio ai giovani. L'opposizione però contesta. Per Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle, Renzi è come Stalin, deve restituire tutto. Per Renato Brunetta invece, Renato Brunetta, Forza Italia, vuole sapere se i rimborsi sono già stati ridotti o saranno lordi, perché questo vuol dire che se sono lordi oltre che ridotti ci sarà un altro 20% di tasse decurtato, quindi una beffa, dice in pratica Brunetta. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Se questo è l'aggiornamento politico, veniamo all'aggiornamento un po' più tecnico e lo facciamo con Gianni Trovati del Sole 24 Ore in studio con noi, col quale vogliamo cercare di capire insomma chi prenderà e quanto. Gianni. Sì, allora buongiorno a tutti. Prima di tutto il meccanismo dell'una tantum, diciamo del rimborso varato ieri dal governo, riguarda le pensioni che si collocano come valore mensile lordo tra 1.443 euro e 3.200 circa, perché quelle sotto i 1.443 non hanno bisogno, diciamo così, di una tantum, perché l'aggiornamento, la rivalutazione di anno in anno ce l'hanno già avuta e quindi non sono interessate dalla sentenza della Consulta. Quelle superiori a 3.200 lordi invece sono escluse dal meccanismo progressivo scelto dal governo. Il governo ha, come dire, provato a sposare due principi: l'esigenza di rimborsare almeno in parte le mancate rivalutazioni, in particolar modo degli anni 2012-2013, e l'esigenza di non scassare i conti pubblici. Per questo ha fatto un meccanismo molto progressivo che fa scendere in maniera rapida i rimborsi a man mano che l'assegno cresce. Appunto, si va dai 750 euro di una tantum, Renzi dice netti, ma anche noi come Brunetta, diciamo così, aspettiamo di vedere i testi, perché i testi sono le cose fondamentali. Dai 750 euro di una tantum per chi ha una pensione da 1.700 euro lordi, poi a scendere fino ai 200 euro di una tantum circa per le pensioni intorno ai 2.700 lordi. In più c'è anche una rivisitazione del meccanismo di indicizzazione del futuro, anche qui in maniera molto progressiva, con una piramide molto assottigliata, un po' più di rivalutazione alle pensioni più basse, un po' meno di rivalutazione alle pensioni più alte. Teniamo però conto che per la rivalutazione del futuro il discorso è al momento praticamente teorico, per una ragione semplice: la rivalutazione è legata al costo della vita, l'inflazione è piatta e quindi oggi anche la rivalutazione è piatta. È il passato, perché il problema è che il meccanismo Fornero Monti si è applicato nel 12 e nel 13, quando l'inflazione era più alta. La rivalutazione è stata del 2,7 nel 12 e del 3% nel 13. Quella per il 2015 è 0,3, quindi non 3% ma 0,3, e verrà rivista al ribasso probabilmente a fine anno. Allora, grazie Gianni Trovati per questi aggiornamenti e per questi chiarimenti. Vi ricordo tra l'altro che tutti i dettagli li trovate con ampio spazio sul Sole 24 Ore, oggi in edicola, e anche sul sito del Sole 24 Ore. Torneremo su questi temi tra poco. Ospiteremo il segretario generale dello SPI-CGIL, il Sindacato dei Pensionati Italiani, Carla Cantone, per capire come vedono soprattutto questa seconda parte di ipotesi lanciata ieri, ossia la possibilità di andare in pensione con un po' di anticipo, cioè senza un'età tassativa, magari a 61 anni, ricevendo un po' meno di pensione. Vorremmo sentire come la valutano i sindacati. Intanto oggi ricominciano le votazioni sul disegno di legge sulla scuola. Alla Camera resta confermato per domani il voto finale sulla riforma della scuola, che passerà poi in Senato. Dopo il via libera arrivato ieri al controverso articolo sui poteri dei presidi, stamattina l'aula di Montecitorio ha ripreso i lavori approvando l'articolo 12, che introduce una card da 500 euro per l'aggiornamento dei docenti, e l'articolo 13, che prevede l'istituzione di un fondo da 200 milioni all'anno destinato a finanziare i bonus di merito che verranno assegnati dai dirigenti scolastici ai docenti. Accantonato invece il voto sull'articolo 11, che riguarda la stabilizzazione dei precari, uno dei punti più contestati da sindacati e opposizioni. Non risolve il problema del precariato, ha spiegato stamattina il grillino Morra nel corso del sit-in di protesta organizzato davanti a Montecitorio dal Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo che di fatto il precariato, attraverso un piano pluriennale, venga gestito e smaltito con intelligenza e anche con equità. E il Presidente del Consiglio non può dir che è responsabile di altri, perché il Presidente del Consiglio è lui stesso espressione di uno dei partiti che ha contribuito a creare questa assurdità che si chiama precariato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E visto che parliamo di proteste, torniamo su una protesta della quale vi abbiamo raccontato ieri, ossia lo sciopero dei medici e dei pediatri di libera scelta, sciopero che ieri è stato revocato dopo il lungo incontro al Ministero della Salute. Vi ricordate, ne abbiamo parlato con la sottosegretario De Filippo. Sindacati medici rappresentati dal governo hanno sottoscritto un accordo con impegni precisi a tutela della figura del medico di famiglia, a garanzia del rinnovo della convenzione di categoria con il Servizio Sanitario Nazionale, convenzione che era appunto al centro della protesta. Veniamo alla cronaca. Nel napoletano un ex guardia giurata apre il fuoco contro i suoi vicini, ne ferisce 6. Dopo la strage di venerdì scorso a Secondigliano, uno dei quartieri di Napoli, un ex guardia giurata di 76 anni ha sparato nella notte contro i suoi vicini senza causare vittime. Era poco prima dell'una quando Marco Castiello, residente nel centro storico di Afragola, ha imbracciato il fucile e incominciato a sparare. Bersagli, i suoi vicini di casa, colpevoli di non aver chiuso bene il portone del palazzo. 6 le persone ferite, tra cui una bambina di 6 anni, nessuno è grave. L'arma usata è un fucile da caccia regolarmente detenuto dall'anziano. Le forze dell'ordine lo hanno trovato grazie alla localizzazione del suo cellulare. L'anziano era esasperato, sostiene un nipote. La situazione non facile della famiglia, il continuo baccano, la spazzatura abbandonata dovunque. Da prima il diverbio e poi gli spari. Castiello è poi scappato a Campobasso in Molise a casa di una delle figlie. Oggi intanto si svolgeranno i funerali di Francesco Brunner e di Luigi Cantone, 2 delle 4 vittime della strage di Secondigliano. Brunner è il capitano della polizia municipale freddato da Murolo mentre cercava di soccorrere un collega. Luigi Cantone è invece il cuoco ucciso mentre tornava a casa dal lavoro in scooter. Michele Nardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci prendiamo una pausa e poi torniamo sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura, la maxi inchiesta contro il calcio scommesse con l'Andrangheta in primo piano. Ne parleremo col vicepresidente della Lega Pro e col nostro Dario Ricci che ci ha già raggiunto in studio, ma prima il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Calcio scommesse, 'Ndrangheta, ondata di arresti nella Lega Pro e Serie D, indagati presidenti, allenatori, calciatori, una trentina le partite sotto esame. Sull'immigrazione c'è spazio per discutere i criteri delle quote, lo ha detto pochi istanti fa un portavoce della Commissione Europea dopo lo scontro delle scorse ore. Gli scontri a Milano del 1° maggio, è stato arrestato un anarchico 28enne, sarebbe uno di quelli che ha picchiato il vicequestore D'Urso. Spese folli, si dimette perché indagato il presidente di Ferrovie Nord a Milano, tra le altre cose 124.000 euro di spese telefoniche del figlio. Le pensioni, proteste dell'opposizione per la soluzione scelta dal governo di rimborsarne solo una parte, l'Europa intanto dà l'ok alle misure, mentre si apre il dibattito sull'uscita flessibile dal lavoro. Anche di questo parleremo più avanti, intanto saluto Antonio Rizzo, vicepresidente della Lega Pro. Buongiorno Rizzo e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Vista l'estensione di quest'inchiesta, Rizzo, le chiedo, è possibile che nei vertici non vi siate accorti di nulla? E com'è possibile? Guardi, è possibile perché la Lega Pro ha adottato un sistema di controllo sin dalla stagione sportiva 2011-2012, avvalendosi della collaborazione di Sport Radar. Sport Radar è una società svizzera che per professione svolge questo compito, oltre che per noi che siamo stati i primi, anche per l'UEFA, e attraverso l'UEFA le partite sia di Champions che di Europa League. Sì. Attraverso sempre l'UEFA controlla anche i campionati di Serie A e di Serie B delle 54 federazioni europee. Sì. Quindi noi riteniamo di esserci avvalsi della collaborazione di un interlocutore di primario livello. Tenga presente che che però non ha funzionato tanto bene, ci sembra di capire. Ma bisogna vedere il focus della loro attenzione dove si deve poggiare, nel senso che allorché ci sono state delle segnalazioni, i cosiddetti alert, la Lega Pro si è subito mossa comunicando agli uffici del Ministero degli Interni, all'UIS, al GIS e alla Procura Federale eventuali segnalazioni di anomalie. Questo è quello che può fare secondo noi la giurisdizione sportiva. È chiaro che nel momento in cui c'è sussistenza di questioni che attengono alla malavita o peggio alla malavita organizzata, non ritengo che si possa chiedere all'organizzatore del torneo di svolgere indagini così profonde che, fra l'altro, mi pare, da quello che leggo in giro sui siti, siano scaturite intersecando delle intercettazioni con ben altra finalità. Allora la fermo perché abbiamo in studio con noi il nostro Dario Ricci, che è più esperto di me di queste cose, non solo si occupa di sport e di calcio, ma insomma si era tra l'altro anche occupato della vicenda di Sport Radar. Dario, hai domande per Rizzo? Buongiorno dottor Rizzo. Vista la catena di intervento che lei ricostruiva, è andata così anche in questo caso? Cioè avevate avuto voi come Lega delle segnalazioni da Sport Radar che poi avete girato agli inquirenti, oppure è una cosa che bene o male avete scoperto stamattina? Certamente sì. Quindi Sport Radar, diciamo, allora ha funzionato come campanello d'allarme? Io non posso dare questo tipo di segnalazioni, che fra l'altro neanche conosco direttamente. Le posso però confermare, e vi posso confermare, che la cinghia di trasmissione delle notizie, laddove siano pervenute, sono state regolarmente portate a conoscenza degli organi inquirenti. Questo è molto interessante. Le leggo una dichiarazione. Non abbiamo potuto trasmettere niente. Senta una cosa, le leggo questa dichiarazione appena arrivata da Damiano Tommasi dell'Associazione Italiana Calciatori. Dice: aprire alle scommesse il mondo dei dilettanti è stato un rischio, perché ci sono oltre 160 squadre e le partite non sono trasmesse, quindi sono difficili da controllare. Il nostro mondo è allettante, per chi persegue il malaffare serve chiarire nel più breve tempo possibile. Al di là della chiarezza che serve, e su questo siamo d'accordo tutti, è d'accordo sul fatto che il vostro mondo non debba entrare nel mondo delle scommesse? Non è un problema. Io stimo molto il presidente Tommasi per la sua storia e per quello, per l'impegno qualitativo che profonde nell'ambito del calcio italiano. Io penso che la sede più giusta per affrontare questi discorsi sia il Consiglio federale, dove siede anche il presidente Tommasi, e credo che sia titolato e legittimato a fare queste scelte, che a titolo personale potrei anche condividere. Quindi a titolo personale lo potrebbe anche condividere, diciamo così, però è una cosa che va affrontata, per così dire, nelle sedi opportune. Voglio ritornare, Rizzo, sulla domanda iniziale. Per questo, ok, Sport Radar, ne abbiamo parlato, questo sistema di controllo, e però c'è anche una questione di polso da parte dei vertici di una categoria. E il polso che avevate di tutto questo non era, non avevate sensazione di nulla di tutto ciò? A me, le dico, mi sembra un po' strano, glielo dico francamente, insomma, però voglio sentire la sua idea. Guardi, certamente no, perché laddove fosse accaduta una cosa del genere avevamo il dovere di trasmettere la notizia all'organo federale, cioè alla procura federale. Io non so poi attraverso quali canali avrebbe dovuto pervenirci questa sensazione di cose che non andavano. Laddove ci sono, noi sicuramente le facciamo il nostro dovere e le trasmettiamo. Quindi non so sinceramente a che cosa attribuire la percezione di queste situazioni. Ultima domanda, immagino che vi sentiate parte lesa e vi costituirete parte civile nel momento nel quale si andasse a processo. Questo lo dice la storia della Lega Pro. Il consiglio direttivo della Lega Pro ha sempre deliberato di costituirsi parte civile nei processi in cui la Lega Pro è stata ritenuta parte offesa. Lo stesso posso presumere che farà il consiglio direttivo laddove dovesse essere il rinvio giudizio di questi soggetti che sono in questo momento diciamo colpiti da questi provvedimenti, per i quali provvedimenti noi vogliamo, e ferma la presunzione di innocenza, vogliamo ringraziare gli organi inquirenti e gli organi di polizia che sono interessati, perché hanno collaborato in maniera fattiva a fare diciamo chiarezza e spero pulizia in un segmento del nostro settore che finora era rimasto, ahimè, inesplorato. La ringrazio, grazie a Antonio Rizzo, vicepresidente della Lega Pro, per essere stato con noi. Prima di chiudere il capitolo calcistico passiamo ad un'inchiesta di tutt'altro tipo, e sempre in studio con il nostro Dario Ricci, che magari ci racconta qualcosa, che è l'inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza oggi a perquisire le sedi della Lega, quella di Serie A nella fattispecie, e le sedi delle Pay TV, a proposito di accordi per la vendita dei diritti che potrebbero essere stati restrittivi della concorrenza. Ci spieghi cosa è successo, Dario? Beh sì, sinteticamente per forza di cose, perché qua entriamo nel gioco dei pacchetti televisivi dell'ultimo bando del triennio 2015-2018. Ricorderai forse, Simone, che mentre in Brasile naufragava l'Italia di Prandelli, naufragava anche il bando dei diritti TV, che era l'altro grande tema sul tavolo di quest'estate. Ebbene, un bando che poi nel suo esito finale venne disdettato, di fatto cancellato, per conservare lo status quo della ripartizione dei diritti TV tra Mediaset e Sky, e addirittura la Lega Calcio, per mantenere questo status quo, decise di incassare meno di quanto avrebbe altrimenti incassato. Situazione già allora che era apparsa opaca a dir poco, e adesso prova a vederci dentro l'antitrust con la Guardia di Finanza. Insomma, sono due filoni completamente diversi e asimmetrici, direi, però quello che emerge è un quadro di un calcio asfittico in cui potentati, consorterie, rapporti individuali pesano decisamente di più della libera concorrenza, del libero mercato e in fondo anche della giustizia, del codice civile e penale. Grazie Dario Ricci per questi aggiornamenti e per questo supporto, e saluto Umberto Buratti, che è il sindaco di Forte dei Marmi. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché abbiamo letto sui giornali di una sua iniziativa. L'iniziativa qual è? Lei dice io potrei assumere, per così dire, dei dipendenti per il comune a tempo determinato, facendomi sponsorizzare nella sostanza questa assunzione da alcune aziende, magari aziende del territorio o non solo, e queste aziende sarebbero disponibili, ma al momento non posso. È un'iniziativa che farà, secondo me, abbastanza discutere, però ci spieghi un po' che cosa intende fare. Ma allora, la proposta è questa: siccome noi abbiamo un impedimento che è determinato dal vincolo per quello che riguarda l'assunzione del personale, chiaramente questo visto dal punto di vista del bilancio pubblico, per non avere un peso sui bilanci dell'ente. E quindi l'idea qual è? Esiste già questo principio nel nostro ordinamento giuridico, vale per le università. Le università possono, se hanno una contribuzione di un soggetto pubblico o privato, possono fare anche un corso di laurea. L'importante è che ci sia questa contribuzione. Allora dico io, ma scusate, se io trovo una sponsorizzazione o una contribuzione, penso ad esempio per noi d'estate, gli stabilimenti balneari potrebbero dare a noi delle risorse che sono risorse spontanee, cioè non sono risorse dell'ente, quelle tipiche, diciamo le entrate ordinarie dell'ente, ma è un qualcosa in più. A quel punto perché non utilizzare queste risorse, non riuscire a utilizzare queste risorse per fare queste assunzioni? Per esempio, non lo so, gli stabilimenti balneari sponsorizzano una squadra di 10 persone che tiene più pulita la città. Loro danno a noi le risorse. Sì. Noi quelle risorse le utilizziamo, ad esempio, per quello che riguarda, pensiamo alla polizia municipale da utilizzare sulla spiaggia, per garantire la tranquillità e la sicurezza delle persone che sono sulla spiaggia. Sì. Anche perché noi, i comuni turistici, hanno nel periodo invernale, io ho 8.000 abitanti, nel periodo estivo arrivo a 35.000 abitanti. Sì. E ho bisogno di avere dei servizi in più. Senta. Questi servizi vuol dire pattugliamento e quant'altro. Senta sindaco, questa è la proposta. Perché non potete farla brevemente? Non possiamo perché la norma attualmente, c'è un divieto che ti pone proprio che noi non possiamo, perché verrebbe comunque qualificata quella sponsorizzazione come costo di personale. Tra l'altro devo dire che questa norma... E quindi il patto di stabilità non ve lo consente, in sostanza? Il patto di stabilità e anche, diciamo, però principalmente proprio i vincoli di assunzione di costo di personale, perché anche se a te ti danno €1.000.000 qualcuno te li dà, è quando vai a qualificare come utilizzi quella risorsa, è lì l'impedimento. Quindi è un impedimento tecnico normativo, nel senso che se anche le coperture ce l'hai, come si direbbe, non puoi farlo. Non puoi farlo, questo è l'assurdo dell'attuale situazione di questa norma. Va bene? La ringrazio. Grazie Umberto Buratti, sindaco di Forte dei Marmi. Le auguro buona giornata. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo per la borsa e subito dopo torniamo a parlare di pensioni. Lo facciamo con Carla Cantone, che è segretario generale del Sindacato Pensionati Italiani della CGIL, per capire come la vede tanto sui rimborsi varati dal governo quanto su questa nuova ipotesi di uscita flessibile dal mondo del lavoro, magari, come si diceva, in cambio di qualche soldo in meno per la pensione. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Calcio scommesse e 'ndrangheta, ondata di arresti nella Lega Pro e Serie D, sono indagati presidenti, allenatori, calciatori, una trentina le partite sotto esame, gli uomini delle 'ndrine tentano di arrivare anche alla Serie B. Sull'immigrazione c'è spazio per discutere i criteri delle quote, lo ha detto una portavoce della Commissione europea dopo le tensioni con Francia e Spagna di ieri. Gli scontri a Milano del 1° maggio, arrestato un anarchico 28enne, sarebbe uno di quelli che ha picchiato il vicequestore D'Urso, agì per far male, dice il giudice per le indagini preliminari. Tensioni, proteste dell'opposizione per la soluzione scelta dal governo di rimborsare solo una parte dopo la sentenza della Consulta alla borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Siamo con Carla Cantone, segretario generale dello SPI CGIL, il Sindacato Pensionati Italiani. Cantone, buongiorno. Buongiorno, spero che non cada la linea. Lo spero anch'io. Senta, cosa ne pensa della decisione del governo sulle pensioni, sul rimborso dopo la sentenza della Corte Costituzionale? Pensa che sia abbastanza? No, io penso che è un primo passo, che la questione non può finire lì e non in quel modo, però vorrei vedere bene il decreto che cosa dice, soprattutto quella parte dove si dice che dal 2016 ci sarà una nuova rivalutazione per le pensioni oltre 3 volte il minimo. Io voglio capire bene che cosa significa prima di dare un giudizio definitivo. Però, come dire, quella, la parte più specificatamente sui rimborsi, quella che il governo ha voluto chiamare bonus, è parziale, però diciamo un primo passo, dice lei, in sostanza. Non è neanche il 30%, per alcuni è il 20%, per alcuni il 10%, e quindi è davvero parziale. Quindi... Il fatto che si sia proceduto in maniera progressiva, però è un'impostazione che vi soddisfa. No, l'impostazione progressiva va bene, perché penso che sia giusta la gradualità e la progressività, è ancora poco, devono fare altri passi avanti. E secondo lei va bene anche il limite che ha deciso di porre il governo, cioè i 3.200 euro? Ce l'aveva detto che sarebbe caduta la linea, ce l'aveva detto, vediamo se riusciamo a recuperare. Carla Cantone, ci sente? No, a quanto pare non ci sente. Allora, facciamo così, vediamo se riusciamo a recuperarla, ma a quanto sembra no, perché è caduta la linea. Peccato, perché ci sarebbe piaciuto sentire la sua opinione, come si diceva, anche sull'ipotesi di uscita flessibile dal lavoro. Parliamo di una bella manifestazione, va 3 giorni di incontri in diverse città italiane, in tutto il mondo, per raccontare la scienza in posti che non vi aspettereste, per esempio un pub. Spero che abbiate tutti avuto una pinta di birra, perché questo renderà forse un po' più digeribile la pinta di scienza. Divulgare la scienza di fronte a un boccale di birra è l'obiettivo di Pint of Science, iniziativa alla prima edizione in Italia. Fino a domani alcuni bar di Milano, Roma, Siena, Genova e Trento ospiteranno incontri con ricercatori e scienziati per parlare di medicina, astronomia, fisica e nuove tecnologie. Giuliano Avanzini, medico neurofisiologo relatore di un incontro a Milano, ci ha spiegato l'importanza della divulgazione a un pubblico di non esperti. Il pubblico dovrebbe riuscire ad apprezzare, capire eventualmente anche a criticare chi la fa la scienza. Non penso che l'aspetto fondamentale della scienza sia quello di essere applicata per qualche uso, l'aspetto fondamentale è la conoscenza. Pint of Science è stata organizzata per la prima volta in Inghilterra nel 2013, dopo che 2 ricercatori dell'Imperial College di Londra ebbero la brillante idea di uscire dai laboratori e dalle aule universitarie per portare la scienza all'interno di pub inglesi. Oggi la manifestazione coinvolge 8 paesi in tutto il mondo, uniti nel nome della scienza dall'Italia agli Stati Uniti, dalla Germania al Brasile, passando per l'Australia. Enrico Forzinetti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora Cannes per il festival. Dopo l'accoglienza trionfale di ieri di Inside Out, il nuovo film d'animazione della Disney Pixar, e aspettando la prima mondiale di domani della giovinezza, il nuovo film in concorso di Paolo Sorrentino, oggi a Cannes sarà la volta di due film molto attesi. Si tratta di Sicario di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Benicio del Toro e Josh Brolin, ambientato al confine tra Stati Uniti e Messico, la cui trama è incentrata su una scappatoia legale che permette ai mercenari di violare il confine dello stesso Messico per conto dei boss della droga. Sempre oggi in concorso il film francese Marguerite et Julien di Valérie Donzelli. Marguerite et Julien sont frères et sœurs, mais c'est Julien l'aîné. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. Il film, che annovera anche Geraldine Chaplin nel cast, racconta la passione scandalosa di un fratello e una sorella che si amano teneramente fin dall'infanzia. Incapaci di resistere ai loro sentimenti, decidono di fuggire. Al prestigioso Marché du Film del Festival di Cannes è poi la volta di un altro film italiano, l'attesa anteprima di Le Badanti, diretta da Marco Pollini, una commedia a sfondo sociale sul tema della vecchiaia che sarà nelle sale dall'11 giugno. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico